Perché viviamo solo quando sale il sole? Perché qualcuno vive solo poche ore? Perché la televisione detta l'opinione? Perché non siamo solo una sola nazione? Quando è che passerà la voglia di emigrare? Quando è che migreranno tutte le zanzare? Quando è che l'auto andranno tutte col solare? Quando è che impareremo ad ascoltare? Cos'è che impedisce un uomo d'essere felice? Cos'è che dà valore a ciò che si dice? Cos'è che ti spinge a sudar sette camicie? Cos'è che ha ammazzato l'immortale Nietzsche? Dov'è un luogo ancora incontaminato? Dov'è che posso finalmente prender fiato? Dov'è che arriva l'arroganza della NATO? Dov'è che diritto al voto è rispettato? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa. Solo quando sale il sole. Perché qualcuno vive solo poche ore? Perché la televisione detta l'opinione? Perché non siamo solo una sola nazione? Quando è che passerà la voglia di emigrare? Quando è che migreranno tutte le zanzare? Quando è che l'auto andranno tutte col solare? Quando è pareremo ad ascoltare? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa tre. Perché? Due più due non fa. Sale il sole. Perché qualcuno vive solo poche ore? Perché la televisione detta l'opinione? Perché non siamo solo una sola nazione? Quando è che passerà la voglia di emigrare? Quando è che migreranno tutte le zanzare? Quando è che l'auto andranno tutte col solare? Quando è che impareremo ad ascoltare?